Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Marino Mauro, colleghi, sospenda la chiama. Allora, colleghi, siccome questo metodo di voto è stato introdotto in via sperimentale, questa sera ciascuno risponderà dal proprio posto. Non c'è bisogno di un applauso. Ciascuno quindi raggiunga il proprio posto e dichiarerà il sì, il no, l'astenuto dal proprio posto. Senatore Sant'Angelo, io il mio lavoro lo devo fare. Che cavolo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, questa, diciamo, c'era della vivacità in Parlamento, come spesso accade. Era il senatore Calderoli della Lega, vicepresidente del Senato, che cercava di coordinare un po' il voto sullo sblocca Italia. C'è stata questa bagarre. Il Movimento 5 Stelle, i vari componenti, esponenti del Movimento 5 Stelle sono buttati sui banchi per boicottare, diciamo, questo voto con le mani sporche di inchiostro, come fosse petrolio. Poi ne torneremo a parlare, se ci sarà tempo, e capiremo anche come procede questo voto, ci saranno degli aggiornamenti, ma avremo tante altre cose naturalmente anche stasera di cui parlare. Si parlerà della sconfitta, della debacle di Obama negli Stati Uniti con queste elezioni di medio termine, ci collegheremo direttamente con l'America, e poi anche dei fatti nostri in casa, in Italia. Oggi c'è stato questo incontro a pranzo tra Renzi e Berlusconi, dovevano discutere di riforme, in particolare della legge elettorale. Non sembra che abbia avuto un esito positivo, ma lo scopriremo tra poco. Intanto, sempre per le vostre opinioni, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, a qualsiasi ora aperta per voi, e poi ci sono i messaggi invece quando siamo in diretta al 349-238-6666 sui vari argomenti, che sia la politica, che sia Obama. Che cosa ne pensate, per esempio, di questa sconfitta di Obama? Intanto procediamo. Naturalmente in primo piano il maltempo, una nuova allerta, criticità rossa in 8 regioni, sono previsti ancora temporali dal Veneto alla Sicilia, e a Carrara sfollati e milioni di danni. Per domani a Roma scuole chiuse. Legge elettorale, incontro di 2 ore tra Renzi e Berlusconi per parlare della riforma. Secondo indiscrezioni, il faccia a faccia non è stato positivo. Sblocca Italia, avete sentito, bagarre al Senato, i 5 Stelle impediscono il voto, e poi gli incidenti alla manifestazione dell'AST. Stasera alla Camera si vota la mozione di sfiducia per Alfano, che dice mai incoraggiato l'uso della forza contro i manifestanti. Stati Uniti, trionfo dei repubblicani nelle elezioni di medio termine. Stasera Obama parla della sua sconfitta. Treni, l'autority rende le penalità più alte per i treni in ritardo. Calcio, la Roma in campo nella sfida di Champions League, cerca il riscatto col Bayern Monaco. Partiamo quindi dalla nuova ondata di maltempo, quindi la nuova allerta, criticità rossa, dicevo, in 8 regioni, previste ancora temporali dal Veneto alla Sicilia. Domani ci saranno le scuole chiuse a Roma, il prefetto della capitale addirittura ha detto non vi muovete se non avete necessità. Intanto oggi la peggio l'ha avuta Carrara, finita sott'acqua con 7.000 sfollati e milioni di danni. Sentiamo allora Gianluca Barbieri, dirigente della protezione civile della provincia di Massa Carrara, raggiunto da Roberta Pellegatta. L'area colpita è molto vasta, densamente popolata, e di conseguenza questo comporta problematiche di difficile gestione, quindi anche la quantificazione del numero di sfollati è difficile. Diciamo che sono migliaia le persone coinvolte dall'evento, ma anche l'elettricità, perché in questi casi abbiamo le cabine elettriche che sono sott'acqua, e anche se si ripristinasse corrente comunque non si può raggiungere tutte le abitazioni, perché ci sono abitazioni ancora sott'acqua, quindi c'è il rischio poi di fare dei corticircuiti. Ora la priorità è quella di riasciugare scantinati, riasciugare le case. Questa è la nostra priorità. È molto difficile perché comunque l'acqua continua a defluire, cioè è complicato. Comunque ci stiamo provando e stiamo lavorando. E vi dicevo, a Roma un'allerta piuttosto alta, perché addirittura il prefetto, vi dicevo, ha detto di non uscire, di non muoversi in città se non è necessario. Sentiamo allora come si sta preparando la capitale a questa allerta con la voce del sindaco Ignazio Marino. Apriremo tutti i varchi ZTL per facilitare il flusso delle automobili. Inoltre tutte le donne e gli uomini della polizia locale domani non saranno negli uffici, anche coloro che normalmente lavorano negli uffici, ma saranno su strada ad aiutare le romane e i romani a trovare eventualmente vie alternative per quanto riguarda le nostre strade. Speriamo che tutto vada nel modo migliore, ma ci stiamo preparando con la massima serietà possibile. Se i dati che il prefetto ci ha comunicato sono effettivamente quelli che poi avremo domani con le condizioni del tempo, è chiaro che l'allerta è grave. Come dicevamo, e poi dopo ritorniamo comunque sul maltempo con un esponente della Protezione Civile e con anche il meteorologo per capire nelle prossime ore, nei prossimi giorni che condizioni meteorologiche ci dobbiamo aspettare. Adesso ci spostiamo sulla politica. Questa sera la Camera, vi dicevo, si pronuncia sulla mozione di sfiducia per il ministro dell'Interno Alfano con riferimento agli incidenti di Roma, della manifestazione dell'AST, ma il ministro insiste nella sua versione. A Montecitorio Angelino Alfano replica alle accuse nei suoi confronti e torna a difendere l'operato della polizia dopo le polemiche per le cariche contro gli operai delle acciaierie di Terni. Contro il ministro dell'Interno, se il Movimento 5 Stelle e Lega hanno presentato una mozione di sfiducia che sarà votata in serata. La carica c'è stata perché i manifestanti non si erano fermati all'alta, ha spiegato nel pomeriggio, intervenendo in aula, il titolare del Viminale. La ricostruzione dei fatti accaduti il 29 ottobre, che è stata oggetto della mia informativa al Parlamento, il giorno seguente sarebbe stata smentita, secondo alcuni, dal filmato diffuso dalla RAI nella serata di domenica e in seguito ripreso dai siti giornalistici. Ho visto attentamente quelle immagini e non contraddicono affatto la ricostruzione offerta da me. Se contro Alfano conferma la linea dura, il Movimento 5 Stelle apre invece al Partito Democratico sulla consulta. I parlamentari pentastellati hanno dato il loro via libera alla candidatura di Silvana Sciarra, la docente di diritto indicata dal PD. L'ultima parola spetta però ai militanti chiamati a votare sul blog di Beppe Grillo. L'esito della consultazione arriverà a ridosso della nuova riunione del Parlamento, convocato domani per la 21ª volta in seduta comune, per cercare di eleggere i due giudici costituzionali e l'ultimo membro del CSM. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Intanto Renzi oggi ha incontrato per 2 ore Berlusconi per sbloccare l'Italicus, la riforma della legge elettorale, ma la sinistra del PD non demorde. Con l'Europa che preme sulla legge di stabilità, meglio concentrarsi su quella elettorale. Matteo Renzi convoca Silvio Berlusconi a Palazzo Chigi per sbloccare l'Italicum, fermo al Senato dal marzo scorso. Il Premier cerca un nuovo patto del Nazareno, premio di maggioranza al 40% dei voti, che assegna alla lista vincente 350 seggi, soglia di sbarramento al 5%, blocco del capolista, anche se è una norma a rischio incostituzionalità. La minoranza Dem attacca, Davide Zoggia risponde così sul capolista. È evidente che se metti il capolista in tutti i collegi questo può creare un problema complessivo, quindi va trovata una formulazione più aderente alla possibilità di fare in modo che i cittadini possano scegliere i propri rappresentanti. Ma Berlusconi chiede una contropartita, ovvero la modifica della legge Severino con la possibilità di ricandidarsi. L'incontro non va bene, il cavaliere prende tempo e il patto del Nazareno non va giù neanche al nuovo centrodestra, fissato per lunedì un vertice di maggioranza, né tantomeno al Movimento 5 Stelle. Danilo Toninelli. Noi dovremmo pulire molto bene la finestra perché è troppo appannata, non abbiamo visto nulla dentro, non sappiamo niente. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Invece si è sentito molto rispetto allo sblocco Italia, ve lo facevo sentire all'inizio, il presidente in questo momento del Senato, vicario Roberto Calderoli, ha sospeso la seduta durante il voto per lo sblocco Italia. I senatori Movimento 5 Stelle hanno impedito ai colleghi di votare con le mani sporche di inchiostro, come fosse petrolio, vi dicevo, si sono sdraiati sui banchi del governo, si sono seduti lungo il corridoio dal quale si doveva passare per votare. Spostiamoci all'estero, con gli Stati Uniti. Sonora sconfitta per il presidente americano Obama nelle elezioni di medio termine. I repubblicani hanno conquistato anche il Senato, a questo punto il congresso è praticamente nelle mani della destra. Obama sta tenendo una conferenza stampa, vedo adesso varie agenzie che stanno uscendo. Obama dice: americani ora si aspettano dei risultati, col nuovo congresso lavoreremo insieme. Poi parla di disoccupazione e deficit giù, cioè di quello che è riuscito a fare come progressi da presidente americano durante la crisi. Poi vi dicevo ci collegheremo direttamente con gli Stati Uniti, ma spostiamoci in Medio Oriente con un altro attentato nelle strade di Gerusalemme. Un altro attentato nelle strade di Gerusalemme. Questa mattina un furgoncino ha travolto i passanti fermi a una stazione del tram, provocando un morto e 8 feriti. La polizia ha poi ucciso l'autista a colpi di arma da fuoco. Si tratta di Ibrahim Alakri, secondo fonti locali sarebbe un militante di Hamas. Un atto terroristico identico a quello avvenuto 2 settimane fa, nel quale avevano perso la vita una bambina di 3 mesi e una donna. Intanto la spianata delle moschee è tornata al centro delle tensioni. Il sito è stato chiuso per poi essere riaperto in seguito agli scontri esplosi quando un gruppo di manifestanti israeliani di estrema destra ha tentato di accedere al sito precluso agli ebrei dal 1967. Dall'altra parte, decine di palestinesi con il volto coperto hanno iniziato una sassaiola. All'origine delle tensioni di questi giorni c'è l'attentato contro il rabbino ultranazionalista Yehuda Glick, gravemente ferito da un palestinese mentre usciva da un convegno. Miriam Corgia, Tragedia 24, Sole 24 Ore. E adesso invece parliamo di treni. Aumentano le penalità per i treni in ritardo. Questo è l'effetto della delibera dell'Authority Trasporti per un accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie. È prevista l'adozione di, di una nuova performance del regime da parte delle ferrovie. Questo impone al gestore di rete la rilevazione dei ritardi anche nelle stazioni intermedie. E siamo al fisco. Aumentano nei primi 9 mesi del 2014 i ricavi dalla lotta all'evasione e dalla IVA, ma diminuiscono gli introiti derivanti dalle imposte dirette. In crescita di quasi il 15% gli introiti derivanti dalla lotta all'evasione. Nel periodo gennaio-settembre, infatti, grazie all'attività di accertamento e controllo delle fiamme gialle, lo Stato ha ricavato circa 760 milioni in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. È uno dei dati che emerge dal documento rilasciato dal Ministero di Economia e Finanza in materia di entrate tributarie. Nei primi 9 mesi del 2014, gli incassi sulle entrate tributarie erariali registrano un incremento dello 0,1%, pari a 164 milioni in più. 2.400 sono invece i milioni di euro derivanti dall'IVA sugli scambi interni, le cui entrate rispetto ai primi 9 mesi del 2013 sono aumentate di quasi 4 punti percentuale. Le imposte dirette invece calano, di circa 150 milioni, con una diminuzione del 2,7%. Scendono tra gli altri gli introiti derivanti da IRPEF, IRES e dall'imposta di bollo. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E c'è una notizia che riguarda i vescovi che dovranno andare in pensione a 75 anni e potranno essere costretti alla rinuncia da un'autorità competente. Questo è un intervento diretto che non era mai stato previsto sinora. E siamo a un caso particolare, il caso Madia. Cioè, il Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Alfonso Signorini, direttore del settimanale Chi, in relazione alle foto pubblicate in copertina sul numero che è in edicola oggi, dove c'è la ministra Marianna Madia con una foto mentre mangia un gelato. Sotto il titolo c'è questo sottotitolo: ci sa fare col gelato, e appunto sembra che l'Ordine dei Giornalisti abbia intrapreso un provvedimento disciplinare, insomma, nei confronti di Signorini per allusioni sessuali. Ma siamo al calcio in questo momento con Dario Ricci e con la Roma in Champions. Sì, Roberta, 0-0 ancora per la Roma col Bayern Monaco all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, visto come era andata. Ricordiamolo come era andata. Era finita 7-1 per i tedeschi all'Olimpio, quindi già lo 0-0 è una notizia, ma. Di fatto Rudy Garcia, l'allenatore giallorosso, ha rivoluzionato la squadra, che si schiera con 4-4-2 e con De Rossi, Keitana, Angolan e Florenzi a centrocampo. Per i meno avvezzi traduco: praticamente fuori in panchina gli uomini di fantasia Totti, Gervinho, e dentro tutti i mediani, perché con i piedi buoni ma comunque mediani, e davanti destro Iturbe. Ora, il risultato è di fatto che il pallone ce l'ha quasi sempre il Bayern, che crea la sensazione di costante pericolo, ma il risultato è ancora di 0-0 e i giallorossi riescono a contenere. Interessante anche l'1-1 che si sta sviluppando finora a Manchester tra il City e il CSKA a Mosca, risultato importante per la Roma perché finissero così le due partite del gruppo E, la Roma manterrebbe i 2 punti di vantaggio sugli inglesi, con cui fa di fatto la corsa alla qualificazione agli ottavi. Ma le partite sono ancora lunghe, Roberta. Certamente, avremo modo di riaggiornarci allora con Dario Ricci. Vi ricordo, se volete commentare le varie notizie, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure ieri avete scritto moltissimo sulle questioni della storia di Brittany, la scelta della morte assistita. Oggi diciamo temi così forti ce ne sono meno, ma potete continuare a scrivere anche gli sms al 349-238-6666. Un'altra dichiarazione di Obama in questa conferenza stampa che sta tenendo dopo la sconfitta: dice il Congresso aumenti i fondi per Ebola e per la lotta all'ISIS. Viabilità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E rieccoci subito insieme. Tra pochissimo ve le riassumo le notizie. Avete acceso la radio in questo momento, le volete risentire, viene sfuggita qualcuna, sapete che quasi dopo ogni pausa ritorno a ricordarvele. Però tra poco approfondiremo il tema della politica interna. Questo patto del Nazareno resiste oppure no? Ma vi riassumo le notizie. Schiaffo Obama negli Stati Uniti, i repubblicani conquistano il congresso, ai repubblicani va anche il Senato, la Casa Bianca dice era uno scenario annunciato. Vertice a Palazzo Chigi, Cavaliere frena sulla legge elettorale, domani si vota sulla consulta. Maltempo sul nord, paura a Carrara per il crollo di un argine, allerta al centro-sud, scuole chiuse a Roma per evitare rischi. Caos in aula per lo Sblocca Italia, abbiamo sentito poco fa. Scontri dell'asta a Roma di qualche giorno fa, Alfano si difende, si vota stasera la sfiducia ad Alfano, il filmato non mi contraddice, dice, e c'è una spaccatura sulla responsabilità delle toghe, sempre in tema di giustizia. Poi il Papa dice ho cacciato dalla Sacra Rota chi vendeva sentenze e annuncia che si può chiedere a un vescovo la rinuncia d'ufficio. E poi ancora la Madia, quel cono è un titolo allusivo su chi sul settimanale, il settimanale nella bufera, ci sa fare col gelato, e signorini, il direttore si difende e cita la Pascale. Io invece cito Renzi e Berlusconi, oggi c'è stata una specie di rinfrescata, possiamo definirla così, del patto del Nazareno, cioè il famoso accordo politico siglato tra Renzi e Berlusconi il 18 gennaio del 2014, con gli obiettivi di procedere a una serie di riforme, da quella del Senato al titolo quinto della Costituzione e in particolare alla riforma della legge elettorale. Quindi Renzi oggi ha ricevuto Palazzo Chigi, il leader di Forza Italia, per definire le modifiche alla legge elettorale, perché Renzi sta pressando per sbloccare l'iter della legge, perché è ferma in Senato da marzo scorso, da quando ha detto entro poco si farà la riforma. E però si apprende che dall'incontro di oggi non ci sono stati esiti positivi. Chiedo illuminazioni a Roberto Dalimonte, politologo, professore di sistema politico italiano alla LUIS, editorialista del Sole 24 Ore. Professor Dalimonte, quali sono le sue notizie e i suoi commenti? Buonasera. Buonasera, non ho commenti diversi dai suoi. Il fatto che non ci sia stato un comunicato ufficiale ci dice chiaramente che ci sono ancora dei punti di disaccordo. Secondo me molti punti sono ormai concordati, perché alcune modifiche credo che ci saranno, sono per esempio la questione della soglia, l'abbassamento delle soglie. Al 5% quindi dovrebbe essere? Cioè esatto, lo sbarramento sì, al 5% per chi non ottiene. Esatto, invece dell'8% che era molto alto. Un altro punto di accordo secondo me è la soglia per il ballottaggio, che adesso nel testo attuale è il 37% e sale al 40%, quindi soltanto se nessuno arriva al 40% e non più al 37%. Ci sarà un ballottaggio, e questo è un fatto positivo. Mi pare che i due punti su cui ancora stanno discutendo sono: uno, le preferenze, liste bloccate preferenze, e l'altro, premio alla lista, che è la vera novità di questi ultimi giorni, e non più premio anche alla coalizione. Credo che il dissenso sia su questo punto. Perché infatti era stato un po', se non sbaglio, ondivago Berlusconi e Forza Italia su questo punto, quando Renzi, non mi ricordo se l'aveva detto alla direzione del PD, la direzione nazionale, ecco, aveva annunciato che il premio di maggioranza andrà non più alla coalizione, quindi all'insieme dei partiti che si aggregheranno per creare una forza forte, scusate il bisticcio di parole, ma al partito che otterrà maggior numero di voti, a quello andrà il premio di maggioranza. Al partito singolo, però Berlusconi un po' aveva detto sì, un po' aveva detto no, invece evidentemente non lo soddisfa questa soluzione. Ma secondo me che lui magari direbbe volentieri sì per una serie di motivi, ma trova resistenza all'interno del suo partito, perché oggettivamente Renzi va bene il premio alla lista, perché la sua lista oggi viene data al 40%, quindi non ha problemi, ma nel caso di Berlusconi, che ha un partito in mano che oggi va il 15%, il 16%, molti si chiedono perché deve accettare un premio alla lista e si priva della possibilità invece di fare una coalizione con gli altri pezzi del centrodestra per essere più competitivo. Quindi secondo me dentro Forza Italia c'è resistenza a questa idea del premio alla lista, e lui frena, è costretto a frenare. A questo punto quindi ferma in Senato da marzo di quest'anno la riforma, che come procederà? Perché se si frena a questo punto siamo già a novembre, entro fine anno è chiaro che non mi sembra, no, che andrà in porto, professore Dalimonte. No, è difficile. difficile che possa andare in porto entro fine anno, perché deve passare. Il Senato è un'arena difficile, perché la riforma è stata approvata alla Camera, dove i margini di maggioranza per Renzi sono più ampi, al Senato sono più stretti, quindi sono d'accordo con lei, ci vorrà più tempo dei mesi che ci separano, delle settimane che ci separano dalla fine dell'anno. Però guardi, io sono tutto sommato positivo, nel senso, io ho visto Renzi all'opera, molto abile, quindi può anche darsi che riesca a strappare, ha già strappato a Berlusconi il doppio turno, che è un elemento molto molto importante di questo sistema elettorale, e chissà che non riesca a strappare a Berlusconi anche il premio alla lista, perché ripeto, Renzi è molto molto abile, e quindi può darsi che ci sorprenda di nuovo. Lei sa che il famoso patto del Nazareno nel mirino sia della minoranza del PD che di Sele 5 Stelle, però Renzi ieri ha confermato che a suo avviso ha detto è giusto fare le riforme con Berlusconi, non posso fare da solo, io rispetto lui, Verdini e Letta, il fatto che Berlusconi sia stato condannato e Verdini rinviato giudizio attiene alla loro vicenda personale. Senta, molte persone in questo paese si dimenticano che l'esito delle elezioni del 25 febbraio 2013 è stato disastroso. Cioè, questo è un paese che non ha in realtà una maggioranza solida, chiara, perché abbiamo primo partito italiano dopo le elezioni, Grillo, che è un partito antisistema. Poi abbiamo adesso una Lega che ha preso la strada di una deriva leppinista, quindi anche di destra radicale. Quindi com'è che si governa questo paese? Se non c'è un accordo fra il PD e Forza Italia, così come fu con Letta, ci siamo dimenticati che il governo Letta si reggeva su una maggioranza PD-PDL, allora c'era PDL non Forza Italia, quindi queste critiche all'accordo di Manzarino, all'accordo di Berlusconi sono fuori luogo, perché questo è il paese, questo è l'esito delle elezioni, quindi non c'è un'altra maggioranza, siamo tornati, se vogliamo, a governi di centro, una grande coalizione di centro. In fondo è dal 2011 che il paese si regge su una grande coalizione, da Monti in avanti, sono 3 anni. Professore, a parte vari messaggi, Andrea da Bologna scrive: ascolto ancora del patto del Nazareno, si dice che il Parlamento è sovrano, basta con questa pagliacciata Silvio Matteo. Senta, però leggevo oggi che secondo voci insistenti Berlusconi è intenzionato a legare l'appoggio all'Italia con una precisa contropartita, vale a dire le modifiche alla legge Severino che gli permetterebbero di ricandidarsi. Qui non ho nessuna notizia, quindi veramente non posso commentare, certo sarebbe grave se fosse così, però non ho nessuna informazione per poter dire che le cose stanno in questi termini. Professore, quindi non ci resta che aspettare di vedere quali saranno le prossime mosse strategiche di Renzi, come riuscirà a trovare il consenso di Berlusconi e di Forza Italia allora sulla riforma della legge elettorale, no? Se no, appunto siamo lì, perché lei lo sa, il Movimento 5 Stelle in realtà non è interessato. E quindi dov'è che li trova Renzi utili per far passare la legge elettorale, sapendo che poi dentro il suo partito ci sono molte riserve su vari aspetti di questa legge elettorale? Quindi secondo me l'accordo con Forza Italia, poi suona male questo patto del Nazareno, l'accordo con Forza Italia è il risultato di una deriva del nostro sistema partitico e soprattutto dell'esito delle elezioni dell'anno scorso. Grazie professor Dalimonte. Grazie a voi. Grazie, buona serata. Mi pare che ci sia Dario Ricci che scalpiti perché c'è qualche notizia dalla partita Roma-Bayern. Eccolo qua, l'uomo Dario, del gol, cara Roberta. Sei tu che hai fatto gol? Sì, c'è stato il gol del Bayern Monaco. Siamo al 41esimo di gioco e da 3 minuti il Bayern è in vantaggio sulla Roma. Bella discesa sulla sinistra di Alaba, il cross rasoterra a rientrare verso il dischetto. E è stato facile per la corrente Ribéry battere con un preciso diagonale di destro Skorupski, che oggi, lo ricordiamo, ha preso il posto di De Sanctis in porta, De Sanctis che è in panchina. Quindi Bayern Monaco 1, Roma 0 quando siamo al 42esimo. Ancora più interessante però il risultato che sta maturando a Manchester, dove il City è sotto 2-1 contro il CSKA Mosca. Questo vuol dire che di fatto se dovessero finire così le partite, questa sconfitta brucerebbe sì per l'orgoglio dei giallorossi, ma peserebbe ben poco sulla classifica. I giallorossi potrebbero conservare i due punti di vantaggio sugli inglesi. Staremo a vedere. Ci auguriamo, Dario, che proprio un gol si contenga lì rispetto alla volta scorsa. Beh, di sì, sette intanto, però visto che ne ha fatto uno anche l'altra volta, se la Roma ne facesse uno stavolta, magari porta a casa anche un pari. Vediamo, perché qua i tedeschi comunque non è che l'hanno presa sotto gamba. Avendo due gambe. Tra poco, Dario, grazie. Intanto vedo questo aggiornamento sullo Sblocca Italia. Scusate. Sì, dell'Aula del Senato alla fiducia al governo sul decreto Sblocca Italia. L'ok dell'Assemblea di Palazzo Madama giunge con 157 voti favorevoli, 110 contrari e nessuno astenuto. Il decreto già approvato alla Camera ora è legge. Quindi lo Sblocca Italia è legge. E su questa legge ci prendiamo una piccola pausa. Voi potete continuare a mandare i vostri messaggi al 349-238-6666 o sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, parliamo tra pochissimo di maltempo perché leggo varie notizie, addirittura è stata rinviata la riunione di Forza Italia di domani per l'allerta meteo. Abbiamo sentito che a Roma è sconsigliatissimo girare domani, le scuole sono chiuse, già questa è stata presa la decisione dal prefetto, in più ha detto se non è proprio necessario evitate di circolare. Ne parliamo tra poco e intanto vi riassumo dopo questa pausa quelle che sono state le notizie in primo piano oggi. Per l'appunto il maltempo con una nuova allerta, un livello di criticità rossa, il massimo in 8 regioni, previsti ancora temporali dal Veneto alla Sicilia, a Carrara sfollati e milioni di danni e per domani, come vi dicevo, a Roma le scuole chiuse. La legge elettorale, c'è stato questo incontro di due ore oggi tra Renzi e Berlusconi per parlare della riforma, ma pare che il faccia a faccia per il momento non sia stato positivo. Sblocca Italia, abbiamo visto che nonostante la bagarre fino a forse una mezz'ora fa si è votata lo Sblocca Italia e quindi c'è stato il via libera, è diventata legge. Gli incidenti alla manifestazione dell'AST, questa sera alla Camera si vota la mozione di sfiducia nei confronti di Alfano che si difende e dice non ho mai incoraggiato l'uso della forza contro i manifestanti. Negli Stati Uniti il trionfo dei repubblicani nelle elezioni di medio termine, quindi la sconfitta di Obama, che in conferenza stampa dice col nuovo congresso lavoreremo insieme e dice gli americani adesso si aspettano dei risultati. Treni, l'autority rende le penalità più alte per i treni in ritardo e per il calcio, se non ci sono aggiornamenti, per il momento la Roma in Champions League perde per 1-0 con il Bayern. Dicevo quindi del maltempo, questa nuova ondata che sta colpendo l'Italia veramente da nord a sud, e il Dipartimento della Protezione Civile per le prossime ore ha detto che si attendono temporali anche molto intensi su gran parte del nostro paese. Sulla base delle previsioni del Dipartimento c'è criticità rossa, cioè il livello massimo per rischio idrogeologico su buona parte di 8 regioni che sono Friuli, Venezia Giulia, il Veneto, la Liguria, la Toscana, l'Umbria, il Lazio, la Calabria e la Sicilia. A causa di questa forte ondata di maltempo proseguono anche i disagi alla circolazione stradale su alcuni tratti. Abbiamo detto che il prefetto di Roma dice di non uscire se non per necessità. In Liguria chiedono un nuovo stato, la Liguria chiede un nuovo stato di emergenza e oggi abbiamo visto Carrara, se avete avuto modo di vedere le immagini, veramente finita sott'acqua con il presidente della regione Rossi che ha detto bisogna accertare le responsabilità, comunque ricostruiremo subito l'argine del Carrione. A questo proposito coinvolgo Antonino Melara, che ringrazio di essere in collegamento. Buonasera Melara. Grazie a voi, buonasera. Che è capo della Protezione Civile in Toscana. Adesso qual è la situazione nella regione, Melara? Vabbè, in generale nella regione è una situazione sotto controllo, però abbiamo appunto un'allerta rossa, come dite voi, elevato nella parte nord-ovest e nella parte sud della Toscana, mentre abbiamo un'allerta arancione sulla restante parte della regione. Comunque questo arancione-rosso non deve... Cioè abbiamo una forte attenzione in questo momento sui temporali che per i temporali c'è in Toscana. Per quanto riguarda invece nello specifico Carrara, sta lavorando l'impresa per ritirare su la parte di argine venuto che è crollato, e che del torrente Carrione, come dite voi, come avete già detto, e stanno lavorando perché se non riusciamo a tappare questa falla, l'acqua continua a riversarsi nelle abitazioni. siamo a buon punto, con domani mattina l'impresa sta lavorando giorno e notte, quindi anche stanotte sta lavorando per tirare su questo argine provvisorio per il momento, poi verrà fatto con tutti i prismi. Se riusciamo a coprire questo punto, con domani dovremmo già lavorare con le drovere per portare via l'acqua dalle case e dalle strade. Questa è la situazione. Al momento si sa, mi scusi Melara, quanti sono gli sfollati, a quanto possono ammontare più o meno i danni? No, i danni ora seriamente non si può dire ora, troppo presto, e chi dice cifre troppo presto a mio avviso dovrebbe un attimino avere una certa cautela, perché i danni vanno quantificati per bene, perché poi va chiesta la calamità nazionale, quindi i danni vanno quantificati con serietà. La situazione in questo momento abbiamo pochi sfollati, circa una quarantina di sfollati, anche perché molte famiglie non vogliono abbandonare la propria abitazione. Perché si parlava addirittura di 7.000 fino a un giorno fa. Questa è una cosa che si chiama tutti i giorni. Allora, ci sono state circa 5.000 abitazioni colpite. Colpite 5.000 abitazioni, che significa 5.000 sfollati o 7.000 sfollati. Poi le persone che hanno deciso di abbandonare l'abitazione sono state circa una quarantina di persone. Ecco, tutto questo. Poi ovviamente abbiamo tutte queste case danneggiate dall'acqua, invase dall'acqua, questo sì, ma il numero di abitazioni più che il numero di sfollati. Quindi gli sfollati sono pochi, perché molti non hanno voluto abbandonare la propria abitazione, vogliono stare alla propria abitazione, si sentono più sicuro, non so, queste sono scelte personali, noi non facciamo evacuazioni forzate. Lo facciamo quando abbiamo case fortemente danneggiate, quello sì, ma danneggiate dal punto di vista strutturale. Quella situazione, diceva, è sotto controllo al momento, non bisogna allarmarsi, darete voi eventualmente delle informazioni, delle indicazioni alla popolazione? Sì, sotto controllo nella misura in cui riusciamo a, specialmente a Carrara, andare già a chiudere questa falla lungo l'argine del Carrione. Sotto controllo, guardi, sotto controllo si può, in maniera totale non si può dire, perché non si ho visto, questi temporali sono sempre a questo punto veramente imprevedibili, però tutte le forze sia statuali, cioè dello Stato, che regionali, che comunali, sono tutte pronte, sono già sul posto a soccorrere la popolazione. La situazione in questo senso è sotto controllo, nella misura in cui non riusciamo a dare sicurezza alle persone che sono sul posto con la nostra presenza, con le nostre attività di soccorso. Grazie Antonino Melara, le auguro buon lavoro, allora buona continuazione. Grazie a voi, grazie. Grazie, buonasera. E adesso però cerchiamo di capire il tempo, che direzione prenderà nelle prossime ore, magari anche nei prossimi giorni, con Paolo Corazzon, meteorologo di 3B Meteo. Buonasera Roberta, buonasera Paolo. A tutti gli ascoltatori, eccoci, ci ritroviamo. Cattive notizie ci aspettano? Purtroppo sì, perché in realtà cosa succede? Che fino ad ora sono state le regioni settentrionali e la Toscana a pagare il prezzo maggiore di questa ondata di maltempo, però non è finita, perché ora l'allerta si sposta al centro-sud, quindi più o meno la stessa perturbazione, o comunque perturbazioni associate a questa, ora interesseranno le regioni centro-meridionali, e ci aspettano ancora un 36-48 ore delicate, ripeto, nelle regioni centro-meridionali, ma vediamo quali sono le zone più a rischio, perché domani sarà soprattutto il versante tirrenico, la bassa Toscana, come ricordava anche nel collegamento precedente, la bassa Toscana, il Lazio, l'Umbria anche e la Campania. Domani forse queste sono le regioni più a rischio, con quantitativi di pioggia che potrebbero superare 100 mm, avvicinarsi ai 200, ora per i più sono solo numeri, ma indicativamente significa la pioggia di due mesi potrebbe cadere in 24 ore, quindi insomma quantitativi importanti. E no. Poi il tutto si sposta anche verso il sud, già domani alcune regioni del sud come la Sicilia vedranno piogge importanti, tra la fine di domani e venerdì toccherà anche alla Calabria, alla Puglia, in particolare il Salento, tutto il versante ionico. Come se non bastasse, ci si mettono venti forti di scirocco, che in questi casi non aiutano, perché non aiutano i fiumi a defluire verso il mare, quindi in molti casi c'è anche il tappo rappresentato dal mare da questo vento forte. Insomma, chi più chi meno, ancora c'è da tenere duro, ripeto, per il centro-sud in particolare ancora 36-48 ore molto delicate. Sì. Paolo Corazzon, non so se hai sentito che il mese scorso sarebbe stato l'ottobre più caldo degli ultimi due secoli. pericoli per l'Italia, lo afferma l'Istituto di Scienze d'Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche, perché sarebbe stato registrato per l'ottobre 2014, il mese che ci ha appena lasciato, un'anomalia di più 3,2 gradi rispetto alla media del periodo 1971-2000. È un'enormità, ma in realtà non riguarda solo l'Italia, con ogni probabilità il 2014 rischia di essere l'anno forse più caldo per l'intero pianeta da quando si hanno registrazioni meteorologiche attendibili. E tutto questo forse è alla base anche di questi fenomeni così violenti, ecco. Questo riscaldamento globale che alla fine c'è chi lo nega, ma ci sono dati oggettivi che lo dimostrano, questo riscaldamento globale è quello che forse è alla base di questa intensificazione dei fenomeni, per cui ora quando piove è un diluvio ogni volta. E poi magari c'è da chiedersi quali sono le cause del riscaldamento globale, e qui magari ci si divide ulteriormente. Il mio parere personale è che purtroppo ci sia lo zampino anche dell'uomo banalmente, diciamo, con l'inquinamento. In realtà è proprio la concentrazione di gas serra in atmosfera, anidride carbonica, metano, ossidi di azoto, che stanno aumentando la temperatura della nostra atmosfera con un'intensificazione dei fenomeni. Poi certo, andare a collegare proprio tutto questo discorso a quello che è successo oggi a Carrara o il mese scorso a Genova non è così immediato, ma forse sotto sotto c'è proprio da fare un discorso del genere, una maggiore attenzione verso la natura, verso il territorio, verso l'atmosfera sarebbe necessaria ormai, a mio parere. Caro Corazon, si continua a far finta di niente, si dice ci sono allarmismi, in realtà non è così, però mi pare che tu abbia fatto un discorso molto autorevole, attendibile, insomma, sulla questione. Poi ce ne sarà modo di continuare a parlarne, si fanno questi summit, si fanno vertici, poi alla fine certo. Mi sembra che non esca granché. Grazie intanto. Per il momento. Purtroppo l'ultimo commento: il dio denaro alla fine vince troppo spesso, e alla fine ci si piega ai voleri di alcuni quando invece il mondo avrebbe bisogno di ben altro. Però basta, non esageriamo, sono un meteorologo, non mi dilungo oltre, basta. Grazie Paolo Corazon. Grazie, ciao, buona serata a te, aggiorniamo chi viaggia. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci qui di nuovo, quali sono le notizie principali della giornata? Ve le ricordo brevemente, poi approfondiremo altri temi. Schiaffo a Obama negli Stati Uniti, i repubblicani conquistano nelle elezioni di medio termine il Congresso, perché prendono anche il Senato. La Casa Bianca, dicono, era uno scenario annunciato. A Palazzo Chigi Renzi ha incontrato l'ex cavaliere, che però Berlusconi frena sulla legge elettorale, e domani intanto ci sarà il voto sulla Consulta. Lo sblocca Italia è diventato legge, è stato votato al Senato, e poi maltempo sul nord di cui abbiamo appena parlato, che però sta scendendo anche al centro-sud. Caos in aula per lo sblocco Italia, vi dicevo, ma appunto è passato, è diventato legge. Scontri invece per l'asta a Roma negli scorsi giorni. Si dovrebbe votare il risultato, si dovrebbe avere verso le 22:30 riguardo alla sfiducia che si vota contro Alfano. Il Papa ha cacciato da Sacra Rota chi vendeva sentenze, così fa sapere, e dice che si può anche chiedere la rinuncia a un vescovo d'ufficio. E poi la questione della ministra Madia, nell'occhio del ciclone c'è il settimanale Chi di Signorini, con una foto della Madia che mangia un gelato e sotto scritto quel cono, un titolo allusivo, dice coi gelati ci sa fare, insomma. Europa 24 notte. Ora invece ci dedichiamo all'Europa. Ieri abbiamo parlato di questo scontro a distanza tra il neo presidente della Commissione europea Juncker e Renzi. Juncker è stato, diciamo così, un po' provocato dal capogruppo del Partito Popolare al Parlamento europeo, che gli ha ricordato che Renzi aveva detto che, insomma, un po' un gruppo di tecnocrati a Bruxelles ci sono, e Juncker aveva detto: io non faccio parte di una gang di burocrati. Poi Renzi aveva risposto: noi non andiamo in Europa con il cappello in mano. Ma oggi pare che in realtà nelle mire di Juncker ci fosse la Gran Bretagna e soprattutto il primo ministro Cameron. Chiedo conferma a Sergio Nava. Sì, ciao Roberta. Ciao Sergio. Beh, diciamo che l'Italia non è che non sia nel mirino, lo è, e insomma lo si è dimostrato oggi. Juncker è nuovamente tornato dicendo: non ho problemi con Renzi, ma reagisco alle critiche ingiustificate, non sabotateci prima ancora e cominciamo a lavorare. Questo è il messaggio chiaro all'Italia. Però il vero problema, ma non solo di Juncker, un po' dell'Europa se vogliamo, anche di Angela Merkel ultimamente, è proprio la Gran Bretagna. E su questo Juncker è stato oggi molto diretto nel suo tipico stile, già l'abbiamo detto ieri, non usa perifrasi o giri di parole, questo è anche un lato interessante del personaggio politico. Ha detto non è Cameron avere un problema con me, Cameron ha un problema con gli altri primi ministri. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che effettivamente la spaccatura tra la Gran Bretagna, o meglio ancora il governo conservatore, liberal conservatore, più conservatore liberale, e il resto d'Europa si sta molto aprendo. L'ultimo casus belli, a parte il fatto, il famoso referendum che Cameron vorrebbe tenere se venisse rieletto l'anno prossimo, nel 2017, dentro o fuori all'Europa, è la questione immigrazione. Cameron ha detto entro Natale, e questo attenzione perché riguarda molto da vicino anche noi, ricordiamo che la Gran Bretagna è tra i paesi in Europa quello che ha fatto registrare la maggiore immigrazione dall'Italia, ed è in assoluto il paese che accoglie ultimamente più italiani, soprattutto giovani. Cameron ha detto presenterò entro Natale un pacchetto di proposte per limitare in qualche modo l'arrivo di immigrati anche dall'Unione Europea, perché al momento c'è la libertà di circolazione, ricordiamo all'interno dell'Unione Europea c'è il diritto di circolazione e stabilimento. Cosa succede? Succede che oggi un rapporto della University College of London dice, attenzione, che gli immigrati dall'Unione Europea in 11 anni, tra il 2000 e il 2011, hanno causato un saldo netto di contributi di 20 miliardi di sterline, cioè la differenza tra le tasse pagate dagli immigrati europei, dai prima 25, poi 27, ora 28 paesi, e le prestazioni del welfare che questi immigrati, una volta stabilitisi in Gran Bretagna, ricevono è di 20 miliardi a favore della Gran Bretagna. E di questi, tra l'altro, circa 5 miliardi di sterline, quindi siamo sui 6 miliardi e mezzo di euro, sono relativi ai 10 nuovi paesi dell'allargamento. Quindi questo rapporto smentisce brutalmente Cameron, dice attenzione, lui sta conducendo una battaglia, il messaggio sottinteso è sta conducendo una battaglia molto forte sull'onda anche, se vogliamo, della popolarità di Nigel Farage, del UKIP che vuole l'uscita dall'Europa, ma se noi limitiamo l'immigrazione, chi ci perde siamo proprio noi, perché le tasse che questi immigrati pagano, alla fine le perdiamo. E quindi questo è sicuramente un rapporto molto interessante. Tra l'altro Cameron non sta passando un gran bel periodo, perché domani volerà a Helsinki per incontrare i paesi del nord Europa, i leader dei paesi del nord Europa, e già sia il primo ministro finlandese che quello svedese gli hanno detto sul tema immigrazione noi non ti seguiamo, non è una questione che noi intendiamo toccare, vale esattamente come ha detto Angela Merkel domenica, vale la libertà di circolazione all'interno dell'Europa, è un dogma che non tocchiamo. Ma Cameron ha avuto modo di vedere questo rapporto e di replicare al fatto che, ma ancora, che io abbia visto ancora no, anche se stamattina l'ho visto sulle prime pagine di due o tre quotidiani, quelli diciamo di area più liberale, progressista, però chiaramente non sono, come dire, notizie che fanno bene al tipo di politica che sta perseguendo. Non è una novità, perché se guardiamo anche quello che dice la City e quello che dice la Confindustria britannica, dicono esattamente questo, dicono attenzione che il tipo di immigrazione che ha la Gran Bretagna porta ricchezza, non è un problema, tanto che lo stesso rapporto della University College of London dice una cosa molto interessante, che il 60% degli immigrati europei che arrivano in Gran Bretagna hanno almeno una laurea. E quindi è immigrazione altamente qualificata, cosa che per esempio l'Italia non ha, ed è anche un problema di competitività che noi chiaramente poi ci trasciniamo, però la Gran Bretagna riceve immigrazione molto qualificata e che porta ricchezza, dove il saldo netto tra tasse versate e prestazioni ricevute è a favore dello Stato britannico. Qui chiudiamo con l'Europa. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Chiudiamo con l'Europa e passiamo agli Stati Uniti, con la debacle di Obama, e anche se la Casa Bianca dice ma in realtà era uno scenario annunciato, però forse non a questi livelli. Sergio Nava, tu che hai seguito anche questo, sì, fino a poco, elezioni di medio termine, di metà mandato. Fino a pochi minuti fa stavo seguendo proprio via internet la conferenza stampa di Barack Obama. Interessante, L'atteggiamento che Barack Obama ha tenuto stasera in conferenza stampa, almeno fino a quando ho potuto seguire, era ancora in corso quando sono venuto qui, però ha di fatto teso la mano ai repubblicani, e su questo ci sarebbe anche una... Anche perché non potrebbe fare altrimenti. Non potrebbe fare, diciamo, se vuole cercare di portare a casa dei risultati scolpiti un po' più nella pietra e non nella sabbia, ha bisogno dei repubblicani. È chiaro che siamo ancora a una pretattica, poi venerdì ci sarà l'incontro anche alla Casa Bianca tra Obama e i leader dei rami del Parlamento. Lo stesso, quello che sarà il leader, lo speaker del Senato, il repubblicano Mitch McConnell, da gennaio, ha anche lui aperto un po' al dialogo. Quello Obama dice però sostanzialmente è stata una buona notte per i repubblicani. Quello che farò da oggi è, poiché mi mancano solo 2 anni, è ascoltare i cittadini, capire quello che vogliono, andare incontro ai loro problemi e lavorare per loro. Se i repubblicani me lo consentono, io cercherò di trovare terreno comune anche laddove ci sono differenze, però per portare avanti i provvedimenti. Questo è il messaggio che ha lanciato proprio poco fa Obama. Altrimenti, ha citato anche il caso della riforma dell'immigrazione, che è stato uno dei motivi che hanno discontento, il fatto che ancora non sia riuscito lui a portarla avanti, soprattutto da parte degli ispanici, per esempio. Se non riesco ad avere dai repubblicani un terreno comune, allora agirò per decreto presidenziale. Interessanti anche i temi che ha toccato Obama: il salario minimo, vuole aumentarlo a livello nazionale, il business, vuole aiutare una politica industriale orientata all'export, ovviamente crescita e occupazione, giovani e formazione, e poi ancora interessante sul fronte internazionale l'Ebola. La lotta all'Ebola e anche l'ISIS. Sì, che vorrà chiedere al Congresso di aumentare i fondi, no, per la lotta, sì, all'ISIS e all'Ebola, anche se su questi due piani si è trovato anche lui in ritardo, no, Sergio? Beh, diciamo che sì, su entrambi i piani la risposta della Casa Bianca non è stata all'altezza, forse c'è stata una sottovalutazione, questo sia della Casa Bianca ma anche a livello internazionale. Certo, questo senz'altro, potenza. Però è interessante notare come in questa conferenza stampa Obama abbia fondamentalmente dato un'accelerazione, ha detto: questa è qualcosa che voglio fare prima di Natale, e l'ha posto proprio tra le cose più urgenti a fare. È un Obama chiaramente abbastanza determinato, quello che si è visto stasera, a dire: beh, ora va alla spacca, questi sono gli ultimi 2 anni, non devo essere rieletto, devo portare a casa i risultati, altrimenti passo alla storia come un presidente che ha fallito quelle speranze di cambiamento che hanno accompagnato la sua prima elezione. Tranne che per la riforma della sanità, che però non è stata completa, insomma ha fatto più di tutti quelli che hanno tentato questa cosa finora. Grazie Sergio Nava. Grazie. Noi ci sentiamo tra pochino.